passo mattina e sera sempre ridendo state a guardare e non vedete la passione mi va struggendo come la cera. Occhi turchini color del cielo, perché guardate, perché ridete? Una speranza che io non mi resta, se non vi porta delle mie pena. Fiori di vino, voi mi farete, rose garofani, vi fanno festa. Non mi fate più lacrimare.